là, osservate, sentite! Che significa questo bel garbo? M'han pur visto e sanno che motivo di lor mi mena in traccia. E mi sbatton così la porta in faccia. L'uom può saper cos'è. Nessun risponde. E di casa! Nemmeno corpo di Bacco! E di casa! Chi è? Sono io, Filippo! San Nencio! Aprite! Non mi conoscete! Capita che risordo! Che volete? Oh, bella cosa voglio! Ho fatto tutto! Ho trovato il notaio! Ho invitato parenti e se volete! Lo sposalizio si può far stasera! Puoi andare a sposarti a una galera, birbante, a scalzone sciagurato briccone, va a trovare la tua moglie, va a sfamare i tuoi figlioli, indegno, levami dinanzi, o pigli un legno.